Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono a Firenze davanti alla Reggia, che fu dei Medici, che fu anche dei Lorena e poi anche dei Savoia, cioè il grande Palazzo Pitti. Questo palazzo raccoglie una quantità di opere d'arte strabiliante, ma è singolare che in questo periodo i curatori del palazzo vogliono attirare la nostra attenzione su degli aspetti che di solito il visitatore non nota, per esempio che Palazzo Pitti è ricchissimo di orologi. Infatti questa Reggia è stata dotata fin dai primi secoli di orologi, quando ancora gli orologi erano delle clessidre, cioè gli orologi a polvere, e poi piano piano, quando i meccanismi si perfezionarono, ci furono queste meravigliose apparizioni di queste piccole opere d'arte, opere di scultura che vennero messe su mensole, su tavoli, e che scandivano il tempo sia di giorno che di notte. Erano piccole opere d'arte perché naturalmente gli orologi avevano la cassa esterna, e la cassa esterna diventa l'occasione per gli scultori per fare naturalmente delle piccole sculture che sono quasi sempre allegorie del tempo. E poi naturalmente c'è l'incredibile ingranaggio interno. La mostra ci offre sia l'esterno che l'interno, perché attraverso un film possiamo vedere come funzionano questi straordinari orologi. La cosa singolare è che gli orologi erano appunto fatti per varie circostanze. Per esempio, gli orologi di notte non facevano rumore, non ticchettavano, il ticchettio era molto potente, e poi c'erano naturalmente orologi invece che non solo ticchettavano, ma all'assegno di ogni ora cominciava una grande musica. Addirittura il palazzo ha un orologio che quando scatta l'ora o le sezioni dell'ora suona un organo, è un enorme orologio naturalmente collocato in una sala molto particolare. La mostra poi ci fa vedere come questi orologi da mensola, pendole, orologi da tavolo diventeranno sempre più piccoli fino a diventare gli orologi da persona, come si diceva nel Settecento, e appunto diventano sempre più piccoli, più perfezionati, naturalmente vanno abbinati ai vestiti. La mostra è ricca anche di abiti, perché gli orologi andavano portati in abbinamento con i vestiti. Oggi noi non stiamo più attenti a queste raffinatezze, fino al celebre orologio da polso che fa la sua comparsa naturalmente tra fine Settecento e nell'Ottocento, e che naturalmente ancora oggi scandisce la nostra vita frenetica.